pure no. l'esperto inglese. Buongiorno, ci manca una L, hai già beccato l'errore, abbiamo fatto già una brutta figura. È vero, dalla mia carriera precedente come insegnante di inglese ho portato molto esperienza per questo Radio Club 91. Come Yes, are you a fan? Sei una fan da Yes, Giselle? Non parlami in inglese, io non capisco nulla. Ma sei un fan di Kiss the Yes o no? Yes, no, in realtà io sono troppo giovane, non sono vecchietta come te. Ma che stai dicendo? Yes sono un gruppo storico americano, parlami un po' inglese. Americani o inglesi? Dai, non sono inglesi, mi pare. Intanto c'è Vangelis che cantava e poi c'è il grande Rick Wakeman che suonava il tastiera. E la cosa interessante è che si sono riuniti in questi giorni, in questi mesi, insomma, hanno appena pubblicato un nuovo album. Ma davvero? Sì, ma senza il tastierista Rick Wakeman. Rick Wakeman. Un tipo che è conosciuto tra l'altro a Napoli l'anno scorso ed è simpaticissimo. Ah, caspiterina, vedi. Allora, facciamo le presentazioni ufficiali. Dici che cosa dici, capitone? Troppo più alto di me, faccio una brutta figura, mi alzo in piedi sul trespolo qui. Ma tu allora, sei alto, Giselle, sei una modella. Sì, diciamo la verità, io fingo, dico di essere alto 1,20 m, in realtà sono 2,20 m. Tu chi sei, scusami, cosa ci fai qua con me nello studio di Radio Club 91? Buongiorno e benvenuto, allora facciamo ufficiale benvenuto, diciamo che entri a far parte del nostro staff. E non vedo l'ora, sì, tra 7 giorni, sto già contendo i minuti. Esattamente, il 12 novembre dalle 21 alle 23 sarai in voce da lunedì al venerdì, quindi dopo Jerry ci sarai tu. Il tuo nome lo dici te perché è difficilissimo, non ci riuscirò mai. Come ti chiami? Allora, my name is Fergal Kavanagh. Un bel nome irlandese, infatti non lo so se parli in napoletano, no? Ma il cognome Kavanagh, Kavanagh Fergal, Kavanagh Giselle. Ma come faranno i nostri ascoltatori a ricordare il tuo nome? Guarda, è troppo complicato, non poteva essere, non so, tipo Bob, John, non si chiamano tutti così. Ma le cose più belle vengono in pacchetti complicati, no? Fergal, va bene, allora io dovrò, me lo scriverò a lettere cubitali qui sopra, va bene, così lo ricorderò ogni volta che ti pubblicizzo. Per ora rimarrai con noi, diciamo una mezz'oretta, così lo ricorderemo ai nostri ascoltatori questo nuovo appuntamento che ci sarà, anche perché la sera dopo Jerry qui non succede mai nulla, quindi saranno tutti contenti di capire cosa farai, cosa dirai. Ottimo, allora poi vi racconto dopo il vostro mito napoletano. Chi è questo mito? Questo è un mito napoletano, vedi, adesso faccio vedere pure dove si vede l'intro. È qua, vedi? Adesso meno 8, 7, 6, Pino Daniele. Grande. Senza i te? Sì, senza proprio il caffè? No, senza i te, non ti lo fa un po' di lezioni. Trare così alla fine del pezzo, ma sei sempre al senso, capitone, ho un ospite uomo e non mi fa parlare. Visto che c'è questo ospite uomo, non mi sembra proprio il caso di mettere le sono una donna veramente trash, sì, ho appiccicato la gomma al vetro, lo faccio sempre, è un'abitudine, porta fortuna, Fergal. Dovresti farlo anche tu, devi venire con una cicca, poi appiccicarla sul vetro perché porta bene. Dovete pure pulire un po' queste vetri, però prima di mettermi la vicino. Ci sono tutte le mie cicche appiccicate. Un'altra cosa che ho fatto, mi sono tolta le scarpe per anestetizzarti completamente, infatti era più l'aria condizionata che c'era. Invece un po' no, perché mi sono tolta le scarpe, l'ho fatto apposta così perdi i sensi e posso approfittare di te. Questa è una super modella. Così, comunque vuoi sentire un po' di notizie a proposito di Robbie Williams? Dai, allora, un po' di pettegolezza. Non si sa se è vero o no, però un bel pettegolezza. Allora, magari le sai che ha registrato ultimamente con Nicole Kidman, l'ex moglie di Tom Cruise, come dite voi qua in Italia. Allora, sembra che qualcuno delle stampe gli ha chiesto: allora Nicole, hai dormito con Robbie Williams o no? E lei ha risposto: ma che, ho dormito con lui, ma tutti quanti sanno che quello è gay. Oddio. E forse è un segreto che è stato rivelato. Vabbè, tanto segreto, però Fergal, già c'erano un po' di sospetti su Robbie Williams, no? Questo però è vero, mi piace, però, Nicole Kidman che fa questi scoop così, è pure un po' pazza pure lei, no? Lei è brava, vedi, guardi bene qua, non ti confondi, perché i secondi si vedono che scorrono così. È l'ultimo singolo di Giulio Quay. Vai! Alle 16:40 minuti, adesso Fergal ti faccio vedere come si gioca al 5 meno. Ma prima posso darti tre parole? Dai, dammi le tue tre parole, dai. Va bene, praticamente è il nome del mio programma che inizia lunedì prossimo alle ore 21. Billboard Music Charts. Sì, se lo dici così non ti capisci troppo. Allora, più piano, un po' scandisci meglio. Allora, Billboard Music Charts. Esattamente, dalle 21 alle 23, qui a Club 91, questo meraviglioso nuovo acquisto. Meno 081 549 91 91. Chiama ora! È il momento di chiamare lo 0815499191 per giocare con noi in diretta al 5 meno. Ti spiego come si gioca, Fergal. Ho detto bene il tuo nome? Sì. Sì, sì, allora, benissimo. Loro chiamano, vengono in diretta con noi, indovinano 5 interpreti di 5 canzoni e in questo modo possono cercare di vincere una ricarica della team con traffico telefonico da 50.000. Andiamo su. 5 meno. 5 meno. 5 meno. 5 meno. C'è però un record da superare, che è quello di Liliana, che ha già giocato nella manche precedente. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Paolo. Paolo, benvenuto su Club 91. Allora, sei pronto per giocare? Sì. Sai che ci sono questi, c'è questo record da superare di 13 secondi. Io dico uno dei tre, tu dici via e iniziamo subito. Va bene. Ok? Uno, due, tre. Via. Siciliano. Lucio Dalla. Another Chance. Scusami. Jorge Sanchez. Unreal. Unreal. Mm-hmm. Pazzo. Family Affair. Family Affair. Siamo già a 15 secondi, era Mary J. Blige. Sì, e poi niente. C'era Afferrare una stella di Edoardo Bennato. Vabbè, fa niente, sì. Paolino! Un bacio! Ciao, un bacio! Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao Maria. Maria, benvenuta anche a te. Allora, sei pronta per giocare? Ti presento, sì. Innanzitutto, visto che sei femminuccio, ti presento il nostro nuovo acquisto. Piacere. Allora Maria, piacere è tutto mio. Grazie. Finalmente un bel maschione a Club 91. Allora, sei pronta per giocare? Sì. Mi si è già offeso Ignazio, guarda, ho combinato un macello. Al mio tre il via. Uno, due, tre. Via. Boy band. Velvet. Androgyny. Passo. Love me, love me. Love me. Seghi. Esatto. Stupid Hotel. Marco Rossi. È vero. Povia. Rimane androgeni. Garbage. Esatto. Quanto era? 12? 11? 11 secondi. Allora mai superato l'idea. Hai visto? Ti ha portato fortuna il nostro nuovo speaker. Allora tu rimani lì, dai tutti quanti i tuoi dati a capocapitano. Ovviamente se nessuno dovesse essere più veloce di te, allora avrei vinto tu la ricarica. Va bene. Va bene? Grazie, un bacio, grazie, ciao, buona serata. Ciao. E questo è il 5 meno, visto? Ti ho fatto vedere un'altra cosa, il 5 meno. Mi ripeti il nome del tuo programmino? Si chiama Billboard Music Chart. Cioè, che cosa farai? Allora parliamo un po' della classifica mondiale, prendiamo dai pezzi internazionali, magari dalla America, dalla Svezia, perché no? Dall'Irlanda? Dall'Irlanda? Irlanda, da casa per mia. Spirito patriottico. Però devono essere in classifica, purtroppo, perciò non posso far sentire il grande pezzo del mio cugino. Il tuo cugino? Perché suona bene, però non è in classifica. Allora, Lucia, posso dire che sei irlandese veramente, che non fingi te, perché c'è tanta gente che fa finta di avere questo accento. È vero. Abbiamo la nuova di... Natalia Bruga. Mi private di inglese, foto. Right on. Right e on. Loro sono? Loro sono i Silicon Soul. Mamma che pronuncia, ragazzi. Right on. Da me gli ascoltatori se la possono scordare una pronuncia del genere. Dai, trovo Silicon Soul. Silicon Soul. Bravissima. Che studentesse che ci fa. Impara in fretta, imparo. Allora, oggi ci salutiamo, però tu per tutta la settimana sarai mio ospite, perlomeno per mezz'ora, un'oretta, così, nel mio spazio, così per pubblicizzare il tuo prossimo programma qui a Club 91. Yes, con molto piacere ti verrò a trovare. E poi anche perché domani mi hai detto che ci sono i super ospiti. Domani c'è Surprise Funk nello spazio di Ciro Cacciola, dalle 13 alle 14 saremo tutti qui. Perché dobbiamo fare una bella ballata di giovedì. Esattamente. Oh, no, domani è martedì. Domani è martedì. Va bene ballare va bene, di martedì. Non porta anche, male, no? Non porta, porta male. Male. Niente. Diciamo di nuovo come si chiamerà il tuo programma. The Billboard Music Charts. Posso anche impazzire, me lo ripeti. Billboard Music Charts. My name is Fergal Cavada, your name is Giselle. No, ma non è fantastico. Dalle 21 alle 23. Dal lunedì a venerdì. From Monday to... come si dice venerdì in inglese? Io che ne so, ma io sono terrore. Friday. perdono, sorry. Me ne vado. No, perdono lo dico, perché sono una vera ciuccia. Allora torni domani, yes. Torni a trovarmi, vero? Sì, tomorrow. Bye. Aspetto. Bye bye. Mancano ancora 8 secondi, ti ho già saluto. Allora, saluto, ti dobbiamo salutarti. Giselle, ciao, con pizza. Ciao. Tiziano Ferro. Sai, dovevi venire prima, mi sei arrivato in ritardo, adesso sono triste. Ma che posso dire, sono rimasto male per questa pioggia che ha preso Napoli. Tant'è vero che sono molto abituato essendo irlandese, però è un po' di tempo che non vediamo la pioggia. Ma come fai a dire che sei irlandese se mi dici è un po' di tempo? È un po' di tempo in più. È molto partenope. No, buonasera, ciao, bentornato, come stai? Sto bene. È un po' incasinato. Un po' incasinato, perché sotto questo tempo. Sotto la sono andato a vedere un paio di persone, aiutato a fare un sfratto, è stancante. stancante, tutto bagnato. Poi. Ma allora ci occuperemo di lui, vero Lellino? Vero che ci occuperemo appassionatamente di Fergo? Visto che è così stanca. Allora io posso parlare come te in questo, visto che ti devo intervistare, va bene? Allora parlo un po' come te, va bene? Allora, che onore iniziare un trend. Allora diciamo subito che tu sei il nuovo acquisto di Club 91, per chi non avesse ascoltato ieri, mi farai compagnia ogni tanto in questi pomeriggi questa settimana, perché dal 12 lunedì prossimo inizierà il tuo programma dalle 21 alle 23. Ma sei proprio solito, vero? Ecco, adesso mi piace, zittisci un attimo, ma no, è cattiva. Oh, guarda, che bello fatti l'allo, l'allo con le due allo. Pensa tu, perché se io chiamo l'allo, l'allo Ambrosini, più internazionale. Andiamo con i corsi, forza, che fra un po' deve andare anche il radiogiornale, ma tanto dico alle signorine che non si preoccupino, perché Fergal rimane ancora un po' qua con me. E questi sono irlandesi pure, i grandi corsi. Ah, lo sapevo, So che questo pezzo ti piace molto, vero? Wow, è proprio un classico. Sai, io sto aspettando fino al 2030, quando vedo le cinque ragazze, insomma, signore a quel punto, dei Spice Girls, tutti insieme. Belle panzone, canta, chiattone, che saranno ingrassate e faranno di nuovo un bel pezzo assieme, eh? 5 meno, 5 meno 081 549 91 91. Noi ormai andiamo a ruota libera, parliamo sui jingle, proprio siamo completamente disfatti, vero Fergo? Allora, siamo pronti per giocare in realtà al 5 meno 081 549 91 91, il sistema per venire in diretta con noi e giocare indovinando 5 interpreti di 5 canzoni di cui dirò io i titoli. C'è un record da superare, che è quello di Andrea, che ci ha impiegato 10 secondi. In palio una ricarica della TIM con traffico telefonico da 50.000. 5 meno 5 meno 5 meno 5 meno. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, chi sei? Giorgia. Giorgia, ti presento ufficialmente Fergo, il nostro nuovo speaker a Club 91. Hello Giorgia. Allora, sei pronta per giocare? Sì. Al mio tre il via. 1, 2, 3. Via. Little L. Gemello Quay. Perdono. Tiziana Ferro. Salta. King Africa. Non Stop Moving. Passo. È vero. È vero. Ma sì, quanti secondi siamo arrivati? Superati la grande Giorgina, mi dispiace. Un bacione, okay, buona basta, serata. Ciao. Ciao. Pronto? No, basta, allora abbiamo finito qua perché abbiamo sforato con i tempi. Ci posso giocare io? Dai, gioca tu, allora ti dico. Però questa come si annuncia? Che già sei sgridato perché noi pronunciamo la R. La R com'è in inglese? R, or, non esiste. Love is on the air. Come dice il vostro jingle, love is on the R. R. Già ci svolta, è una roba bestiale. Allora annunciami tu il prossimo pezzo, va. Allora, il prossimo pezzo esce il 19 novembre e sarà sull'altro lato. Il B-side contenerà due pezzi registrati dal vivo in America e sono quei grandi quattro ragazzi da Dublino. It's You Two and this is Walk On. Mamma mia! Club 91. Inglese, portami a casa, take me home. Ma io porterei Sophie Alice Baxter a casa, è senza carina, problemi. Molto carina. Ma pure tu, questo Gisella, mi pare che devi andare a casa. Chi si è? Immagino che tutti gli ascoltatori di Radio Club 91 vorrebbe sapere chi è che ti porterà a casa. Non lo saprai mai, anche perché sei qui per essere intervistato tu, non per intervistare. Come dice Homer Simpson, toc. Vedi, no, in realtà abbiamo pochissimo tempo, però diciamo che tornerai domani. Se ci riusciamo, domani, se riusciamo ad avere un po' più di tempo, allora ci organizziamo e ti faccio un'intervista come se te, Fergal, no? Va bene, perché ti fai la gente, foto pure. Poi ti faccio una foto, no, poi tu mi fai l'autografo, tutte queste cose qua che si fanno, no, di routine. Wow, bellissimo, mi fai sentire una star. Esatto. Allora, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, Fergal è il nuovo acquisto di Club 91, yes, ed entrerà ufficialmente a far parte dello staff da lunedì 12 novembre e sarà in voce tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 23, vero? Esatto, non mi rimane di dire molto perché l'hai detto tutto tu. Lo so, ah, il programma si parla di classifica mondiale, esatto. Billboard Music Charts di tutto il mondo. Sarà una cosa strepitosa proprio, vero? Ah, abbiamo ancora 10 secondi. Io ritorno domani, ovviamente 14:18. Fergal mi verrà a fare compagnia e ne sapremo qualcosa in più di lui. Va bene? Ok, looking forward. Bacetto. Ciao, Gisella. Ciao. Giamiro, you give me something. No, aspetta, com'è che lo pronunci? Jeremy Giamiro, già, no, io ho sempre detto Giamiro Quay. Va bene, anche questo. Troppo esiste. Napoletano? No, forse il mio accento è troppo irlandese, sai. Benvenuto, buon pomeriggio, come stai, Fergal? I'm okay, thank you, Gisella. Oggi c'è il sole. Insomma, è già andato un po' via, però a quest'ora già non c'è più il sole. Allora devo ritirare i panni che ho stesi stamattina. Anche io li ho stesi stamattina. Te guarda, ho visto la bella giornata subito, due lavatrici una dopo l'altra. Allora, presentiamoti agli ascoltatori, perché non tutti sono sintonizzati tutti i giorni. Tu sei un nuovo acquisto di Club 91, inizierai a trasmettere da lunedì prossimo, dalle 21 alle 23, per la gioia soprattutto delle femminucce e di quei maschietti che amano come me i maschietti, perché oddio, tutto può essere, e avrai un tuo programma. Mamma mia, Michele Televisione, Michele Televisione, tanto è vero che siamo disponibili pure sull'internet. Però. Certamente, perché poi magari mettono sito. In webcam. Certamente la metteranno, già sai tutto, andiamo al nostro sito che è www.radioclub91.it. A breve saranno disponibili anche tutte le tue foto, perché saranno inserite nello staff, tutti ovviamente. Tutti quanti, spero proprio di no, non quello del 93. Perché eri brutto nel 93? Faceva delle belle cose nel 93, che non vorrei che mia mamma mi vedesse. Questa la dobbiamo svelare. Cosa facevi nel 93, Fergal? Allora parliamo del prossimo disco. Dai, come si chiamerà il tuo programma? Allora sarà Billboard Music Charts. Cioè, che vuol dire? Allora, sono classifiche del mondo. Un po' vediamo che sta andando bene in Germania. A me, in Irlanda, a me non me ne frega niente, America. Però Allora, non ascoltare il mio programma e perderai un bel spettacolo. Sto scherzando. Un spettacolo audio, sì? Sì, audio. Poi quando ci sarà la webcam sarà uno spettacolo audio e video. E così perché... li possono vedere a ballare a tutti i bei pezzi. Ballare e fare un po' di strip, perché quello ci vuole sempre un pochettino, no? Ecco, eccolo che inizia. Non lo posso provocare un attimino, ma è terribile. Ignazio, ma che guardi. Quanti anni è che sei in Italia tu? Oh, sono 8 anni. Otto anni? Come che non sei fuggito? Ti piace? No, è troppo bello l'Italia. Hai capito, gli gusta. Ti piace. Poi proprio Napoli. Napoli è la più bella città del sud Italia. Ma tu guarda. Sicuramente. Noi ci sputiamo sopra, lui dice che è bella, vedi? C'è Afro Man Con. With Because I Got High. Dai, canta un pochettino, però. Ma ti volevo chiedere, Giselle, che fai di solito di mercoledì sera? Di mercoledì sera vado al cinema, forse. Ovvero? Sì, perché allora... si paga di meno, io sono poverella. Io stavo per dire, visto che non avresti progetti, visto che vai al cinema di mercoledì, ti chiedo, andiamo insieme a vedere Moulin Rouge. Allora, niente cuscè. Dipende, c'ho un paio di pantaloni stracciato, me lo cuciresti un po'? 081 549 91 Chiama ora. Il momento di chiamare allo 081 549 91 91 per giocare in diretta con noi e cercare di vincere una ricarica della team con traffico telefonico da 50.000. Wow, siamo generosissimi. Siamo generosi. Sapessi quanti ne abbiamo regalati finora? Pensa che al mattino Giuliana Galasso regala addirittura i telefonini, il Nokia 3310. Pensa te. A te? No, a me, agli ascoltatori. A me nessuno mi regala niente. Ma va. 5 meno. 5 meno. Pronto? Ciao, chi sei? Zazzella, sono Marco. Marco, benvenuto, anzi bentornato, giusto? Sì. Come stai? Bene, grazie. Bene, allora ti presento Fergal. Ciao Marco. È un nostro nuovo acquisto. Allora, sei pronto per giocare? Al mio 3 il via, Marcolino, forza, dai. 1, 2, 3. Via. Alla fermata. Passo. Tre parole. Valeria Russo. I'm real. Jennifer Lopez. Drowning. Backstreet Boys. Inside All The People. Prince Funk. Ti rimane alla fermata. Siamo già 13 secondi e quindi siamo fuori tempo. Ciao, un bacio, a presto, ciao, buona serata. Ciao, pronto? Ciao Gisella. Ciao, chi sei? Sono Carmela. Carmela, benvenuta anche a te, presento anche a te Fergal, il nostro nuovo acquisto, trasmetterà da lunedì prossimo. Ciao Carmela. Pronti per giocare al mio trail, via Carmela. 1, 2, 3. Via. Infinito. Grazie. Bullicious. Come? Bootlicious. Destiny's Child. La stanza dell'oro. Litchiba. Quando sorridi. Mistress. Starlight. The Superman Lover. Sì, però 9 secondi. Fa nulla. Va bene, un bacione. Ciao. Giocheremo esattamente ancora fra un'ora, sempre col tentativo di superare il record precedente, che già non lo ricordiamo più, sempre nel tentativo di regalarvi una ricarica della team con traffico telefonico da 50.000. Wow. Sono sbadata, sarei da licenziare, di la verità. Ma a me serve un cellulare, quindi hai un cellulare, allora se ti licenziano per darmi il cellulare, va il bene. Mio? No, ma te quello è più pazzo di me, come si fa? Io non lo so, guarda. Cioè abbiamo l'intro, io pensavo partissi altro, me l'ero già dimenticata. Ma quel che ti amo maledetto, Giselle, parliamo di Paolo Men e Cuzzi, che ne sai? Non lo so, nemmeno io. Ci hai messo poco ad entrare nello spirito di Club 91, adesso ci siamo messi a tirare le cicche al capocapitano, che tutti e due, cioè veramente. Fergola, allora questo è l'ultimo passaggio che tu fai con me, perché domani sarai ospite della nostra Giuliana Galasso. È vero, mi hanno detto che Giuliana era quasi bella come te. Non quasi, è molto di più, lei è molto più bella di me, veramente, la nostra Galassona. Vero, allora inizia alle 10, io sarò qua alle 9:30 ad aspettare. E quindi tu sarai un po' ospite di Giuliana sia domani che dopodomani, e così parlerai anche ad un altro pubblico. Io però devo dire in bocca al lupo, no, sta ragazzone che inizia lunedì dalle 21 alle 23. Crepi, grazie Giselle. E benvenuto, un benvenuto ufficiale sia a lui che al tecnico che ti farà la regia, che è Gino, giusto? Sarà il lui. Il mito, yes. Il mito che sta di là maschiona, maglietta a maniche corte per far vedere i muscolacci. Poi, abbiamo capito che c'hai i muscoli, Gino. Vai, facciamo in questo modo. Programma, questo Gino che è un grande tecnico. Io che spero di accontentare gli ascoltatori di Radio Club 91. Io li costringerò ad ascoltarti, perché loro lo sanno, che poi non ti ascolto. Se non mi obbediscono vado a casa loro, li picchio. Oh, allora così nessuno mi ascolterà aspettando scherzo, che Gisella venga. Scherzo assolutamente. Quindi diciamolo di nuovo, da lunedì 12 novembre il nostro Fergal sarà qui a Club 91 dalle 21 alle 23. Perfetto, presento Laura Pasini, il ritorno. Dai, da te. Presentala tu. Here she is. Terence Pentarby. Oh, Fergal, buongiorno. Hi, Giuliana. How are you? I'm okay, thank you. Okay. Ma Giuliana, devo dire, Giuliana parla un inglese ottimo. Grazie, beh, questo l'ho pagato, perché non è vero. Questo mi fa molto piacere, mi fa onore, perché se lo dici tu ci credo, visto che tu sei Regno Unito doc, non sei inglese, no, ma irlandese. Sì, però Regno Unito, perché esatto. No. Perché l'Irlanda è una repubblica, indipendenza. Esatto, per dire che non sei inglese ma sei irlandese, una terra bellissima che io ho conosciuto, visitato, e diciamo subito che tu sei la novità più bella di Club 91. Sono anche l'unico novità, la novità a parte il tecnico inverno, Gino, a parte il tecnico, adesso stai dicendo che sono più bello di Gino. dai, vi metto sullo stesso piano, pari merito, siete pari merito. Grazie, che ne pensi Gino, sei felice di questo, essere pari merito con me? Perché, allora parlaci un poco di quello che farai, che comincerai a Club 91. Allora, dal lunedì prossimo alle ore 21 ci sarà un bel programma di nome Billboard Music Charts, e guardiamo un po' le hit del mondo, hits del mondo, hits of the world, eccetera. Un po' di notizie di quello che sta succedendo, per esempio su quel disco che abbiamo appena ascoltato, O Divina di Terence Trent D'Arby, c'è da nominare che non si chiama più Terence Trent D'Arby, ha cambiato il suo nome a Sananda Maitreya perché è diventato molto religioso. La casa di etichetta è casa discografica, ha detto no, noi non possiamo vendere i dischi sul nuovo nome, perciò c'è sempre Terence Trent D'Arby scritto sui dischi, però con il nome del brano O Divina si vede anche che sta diventando molto più religioso. Bene, cioè, poi ci aggiornerai su qualche altra novità che ti chiedo dopo, su qualche altro artista. Adesso ascoltiamo, li conosci? Mistura Fina, ne ho sentito, sì, carino. Possiamo dire When You Smile, cioè, quando sorridi, che quando bel sorridi. Sorriso che hai. Club 91, anche il nostro Fergal stava cantando questa canzone. Devo dire che c'è molta somiglianza tra te e Bryan Adams. You look like Bryan Adams. Non lo so se questo è un complimento, però vorrei suonare la chitarra come lui. Ti piace come suona la chitarra? Certo che è un complimento. Adesso sai che cosa facciamo? Che cosa succede? Andiamo un po' in heaven, paradiso, cioè, esatto. Soprattutto se qualcuno vince la Nokia. Esatto, in un number paradise, il paradiso dei numeri. Bye. Radio Club 91 premia l'ascolto. Okay. Vinci un telefonino Nokia 3310. Vinci. Chiama ora 081 549 9191. Avete sentito anche lo ok di Fergal, ti stavo chiamando con un altro nome. Allora Fergal, leggiamo gli indizi per vincere il Nokia 3310. Ok, vi devo dare gli indizi Nokia, siete pronti ragazzi? Il primo numero è tra 30 e 90 e chiaramente non si sa se pari o dispari, e il secondo numero è pari e tra il 10 e 70. That's right, ok. Oh yeah. 081 549 9191 per giocare con noi. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, chi sei? Monica. Ciao Monica, ti presento Fergal. Piacere. Il nostro nuovo speaker. Hello Monica. Hello. I tuoi numeri, allora, Monica. 36 56 56 56 Proviamo a digitare l'invio. Ma ciao. C'è il gatto, nulla da fare per Monica. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Ciro. Ciao Ciro, tutto bene? Tutto bene. Sai come si dice qui a Napoli quando si incontra un Ciro, caro Fergal? Si dice Ciro papà. Papà. Ciro, che aria tiro? Che aria tira Ciro? Diciamo, se vinco il telefonino va bene. Se non vinci, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Vai con i numeri, Ciro. Senti, 36 già l'hanno detto, mi sento. Però mettiamoci l'80 vicino. 36 e 80. 80. Proviamo con questa combinazione. Faccio la gazza. Ah. Oh. Ciao Ciro. Ciao, ciao. Abbiamo l'ultima telefonata. Pronto? Ciao, ciao, chi sei? Ciao Rosanna, anche a te presento Fergal. Ah, molto piacere. Lui farà uno sconquascio di cuori, già lo immagino. Ma dalla voce già si capisce. Va bene, senti, grazie Rosanna. Le voglio dire le stesse cose della voce di Rosanna. Bella questa voce, nostra ascoltatrice. Hai sentito Rosanna? Vai con i numeri. Allora, io dico 51. 51. 68. 68. Facciamo un augurio in inglese. Good luck. All right, good luck to you, Rosanna. We're going to press the return button and we'll see what happens. Thank you very much. Okay. Bye. Ciao Rosanna, grazie. Nulla di fatto, Fergal. Ma date da mangiare a questo gatto ogni tanto? Sì, il latte diamo sempre io la mattina. Quando arrivo in radio, latte con i biscottini. Però è famelico questo gatto. Non si accontenta. Non lo so se il latte è la cosa migliore per i gatti. Ah, sì? Però sicuramente una bella nocchia gli andrebbe bene. Senti, allora, si rigioca domani. Intanto resta ancora qui con me per i saluti finali. Kylie Minogue. I can't get you out of my head, baby Juliana. Fermata, ma se passa una mucciaccia alla fermata, vi sdraia, cari maschietti che ho accanto? Ma che cos'è una mucciaccia, scusa? Una mucciaccia, io la intendo una mucciaccia, no? Una ragazza. Cioè una come te, praticamente. Ah, grazie. Ma se passasse una come te, io la fermerei. Ma che buoni, ma che gentili. Mi presenti questo signore che non conosco ancora? Non lo conosci? Ma no, io allora, non lo conosco. Molto lieto. My name is Fergal. Oh, nice to meet you, nice Hello, to meet you. Welcome. Welcome to Radio Club 91. Ciro Fergal, Ciro Cacciola. Quindi io sono ragazza, adesso sarò la più invidiata di tutte le ragazze campane, perché sono accanto a due bei giovanotti, a due bei mucciacci. Sono quelle campane, scusami, dai, invidiata dalle ragazze di tutto il mondo, diciamo brava, così, brava. Va bene, di tutto il pianeta. Da dove arriva Fergal? Io sono irlandese. Voglio sperare che c'è mia madre sull'internet per ascoltarci in Irlanda, quindi può darsi che sono pure invidiosa in Irlanda? Assolutamente. Oh, www.radioclub91.it, ascoltateci in real audio da tutto il mondo. Io vi lascio con Ciro Cacciola e Serenate e anche con Fergal. Sì, saremo un po' insieme così, giusto per rompere il ghiaccio. Voglio fare un po' di lezione d'inglese perché sai, sono un po' arrugginito. Allora non sarà il ghiaccio che rompiamo, a me rompete le... Oh, non si può dire, perché insegnando inglese è un lavoro, no? Hai ragione. Io voglio divertirmi. Fergal, guarda, io per il mio inglese sono affidato a Giuliana. Tutto ciò che arriva dal mondo anglosassone deve passare attraverso di lei, per cui se lei mi dà il suo placio, ma, io ma ti certo, offro Serenate. Ma c'è, ma tra l'altro lo sai che ha detto prima? Ha detto che parla un ottimo inglese. Tu? Sì. È bravissima. E fa anche un ottimo cheesecake che però non abbiamo ancora assaggiato. Ecco, cheesecake, no? cheesecake, esatto. Però non ho forno a casa, quindi me lo dovete... Dai, vai che ve lo porto io, ve lo meritate. Guarda, qui a Radio Club 91 ci stiamo attrezzando anche con una grande cucina, tu non lo sai ancora, ma tra un po' esatto. Qui scorderemo anche piatti. Buonissimo. Oh, c'è la canzone che piace tanto a te, Ciro. Sì, è vero, perché a te no? Molto. Tra poco, noi ci sentiamo domani. A dopo, ciao. Tornati a Serenate, oggi è giovedì, se non mi sbaglio, sì, giovedì 8 novembre, anche il compleanno di mia sorella, le faccio tanti auguri, non so se mi sta ascoltando, ma volevo innanzitutto fare tanti auguri e fare complimenti alla una delle nostre nuove voci, Fergal. Hi Ciro. Hi, how are you? I'm okay. You are daddy cool. Don't think so, no, daddy non sono un papà pazzo, cool. No, non sono né papà, forse sono un po' pazzo probabilmente, sì, ma non... Come stai? Benvenuto a Radio Club 91, da lunedì sentirei la tua voce tutte le sere dalle 9 alle 11 di sera. È vero, però in Italia bisogna dire dalle 21 alle 23. Dalle 21 alle 23. Dice, 9 ad 11 dicono ma ti svegli così presto. Guarda, veramente mattina. Il tuo tocco anglosassone in questo si rivela, si traduce, perché sei molto preciso e sono convinto che sarai pieno di notizie puntuali che faranno la gioia di tutti i nostri ascoltatori. E mi pare di capire anche in particolar modo delle nostre ascoltatrici, non so perché, ma poi lo scopriranno. Sanremo. Da quanto tempo sei in Italia? 8 anni mi dicevi? Sono 8 anni. 8 anni. E tra cui 6 sono passati a Napoli. E la radio è una tua passione? Come è nata questa, questa voglia di fare radio? Quando sono bambino, da quando ero ragazzino, stavo lì col microfono a casa a registrare. Ma canti anche? Classifica. No. Canto sì, però canti. Forse è meglio se non canto in onda. Ogni tanto col microfono spento. Senti, tu sai che questa trasmissione si chiama Serenate. Se tu potessi dedicare adesso in questo momento una serenata a qualcuno, a chi la dedicheresti? A qualcuno di scelta mia? Beh, naturalmente sì, sono dedicata a te. Allora, io c'ho un bel calendario a casa, no? Lì sopra c'è una ragazza di nome Manuela. Non dico più, però Manuela, la serenata è per te. Ok, allora cercheremo di scoprire chi è questa Manuela. Nel frattempo noi torneremo ancora insieme con una serie di ospiti, come sempre. E io allora di nuovo do il benvenuto a Fergal. Hai imparato bene a pronunciare il tuo nome, che è molto difficile. Fergal. Imparerà, spero, anche il nostro Enzo Chiucchiola, che è alla regia. Nel frattempo saluto i nostri, la nostra redazione Under 9, Simona Camilla, Luca Cristiano, perché questa è Singing in the Classroom, tutti a scuola! A proposito di persone pazzerelle, in modo simpatico, è arrivato Fergal. Hello! Buongiorno! Good morning, buongiorno, mica tanto, visto che ieri sera ho fatto così tardi. Esatto, e so anche che ti sei fatto male le ginocchia giocando a calcetto. È vero, andato ad attaccare un giocatore, però ho giudicato male la distanza e mi sono trovato per terra. Due ginocchia a sanguinare, ma che si può fare? Almeno ho toccato la palla un paio di volte ieri sera. Ma almeno hai fatto gol? Nemmeno? Non se ne parla proprio. Niente. A calcetto sono un disastro. Siamo che disastro. Era la quarta volta in vita mia che gioco a calcetto. Ah. Pensa un po'. Prova a cambiare sport allora. Allora poi ne parliamo, Giuliana. Allora, tu che cosa fai questa sera e anche domani e dopodomani, in questo fine settimana? Non lo so, sto aspettando una bella proposta da te. Posso darti un bel consiglio? Vieni con noi e con tutti i miei ascoltatori da Titos. Titos? Dov'è Titos? È un pub in un posto incantevole, di Vico Equense. Pensa che si vede anche il mare. Bellissimo, mi allora, interessa. Questa sera c'è il karaoke che a me piace tanto. Sai io cantare? Ho fatto il karaoke anche in Inghilterra, allora, ed è bellissimo. Se sai cantare sei troppo brava per il karaoke. Karaoke questa sera, poi domani e domenica musica dal vivo e piano bar. Tra l'altro domenica c'è anche la partita. Ecco, se vuoi imparare a giocare a calcio vai da Titos, vedi la partita e prendi lezioni di calcio. E Titos domani pomeriggio farà vedere la partita tra l'Irlanda e Iran? No, questo no. Domenica pomeriggio la partita è il Napoli. Buono. Ti piace la birra? Tantissimo, per questo sono inguaiato stamattina. Ah, anche. Ecco, per questo motivo. Allora, sappi Fergal che da Titos, in questo pub, c'è la festa della birra per tutto il mese di novembre. Tu bevi più birra che puoi. Wow. Raccogli i bollini e partecipi al sorteggio finale, un premio, bellissimo, un weekend per due persone in una capitale europea. Ah, ottimo, posso tornare a casa a trovare i miei? E certo, allora ciao a tutti da Titos, anche Fergal, a bere la birra e a partecipare a questo straordinario sorteggio, un weekend per due persone in una capitale europea, estrazione del premio il 9 gennaio alle 22. Mi resta solo da dare il numero di telefono di Titos, 081 801 5092. Questa sera tutti a fare karaoke anche con Fergal. Let's sing it. Che cosa cantiamo? Magari cantiamo questa canzone, dai. Michael Jackson è un po' difficile. È un po' difficile cantare. Da cantare. Ma sei bravissimo. Dai, vuoi vedere come ballo? Come Michael Jackson. Balli anche come lui, vi garantisco. Non lo potete vedere, ma è uguale. Michael Jackson, You Rock My World. 25 minuti, come direbbe Fergal, R.A.F. Oh yeah. Ma se ne va via. Via con la moto, prende e scappa via. Fergal, allora, senti un po', dopo voglio anche il tuo parere su questa notizia. Pensa che fra gli sportivi statunitensi dilaga una nuova moda. La moda delle acque speciali, arricchite di ossigeno, darebbero all'atleta energie extra e prestazioni migliori. E costano anche quasi 6-7 volte più delle bottigliette di acqua minerale normale. Secondo un comitato di esperti però dell'American Council of Exercise, queste pozioni magiche non avrebbero la minima efficacia. E quindi spiegami se ho capito bene, questi praticamente vanno a prendere l'acqua di un lago naturale? Arricchita di ossigeno. Dove la vanno a prendere non lo so. Perché non penso posso che immaginare. Sia già imbottigliata, eh? Ah, quindi perché gli americani da un lago... che sì. Prenderebbero da un lago che non è tutto sterilizzato, eccetera. Esatto. Mi sembra un po' assurdo perché vero? Gli americani sono tutto ingrippati con questo fatto. Con di, queste cose dell'igiene. Beh, probabilmente l'acqua proviene da un lago naturale e poi viene sterilizzata. pasteurizzata, imbottigliata, impacchettata, e loro la prendono al supermercato. Però, e quindi mettono un sacco di additivi, esatto, dentro, e non è più naturale. Non è più naturale, costa di più e non è vero che dà prestazioni extra. Sono pazzi, un bel businessman dietro questo affare. Vogliamo fare un business pure noi, Giuliana? Sì, con che cosa vai? Non lo so, parliamo. Noi potremmo farlo con la birra. Di le schiava dell'amore, come fa Britney Spears, vero? Ti piace Britney? Mi piace guardarla, posso dire così. Solo guardarla cantare, guardarla ballare o guardarla in un'altra occasione? Dipende, Britney non si è ancora messa a disposizione. Lovers su Club 91, 12:55 minuti, non è ancora arrivato Ciro Cacciola, che sarà in vostra compagnia a partire dalle 13 con serenate, ma c'è Fergal. Vuol dire Fergal, che io devo fare le serenate invece di Ciro? Ecco, il primo programma sarà anticipato a questo pomeriggio. Adesso la serenata la fai a me, perché ti ospita. No, scherzo, ricordiamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con te? Allora, lunedì sera alle ore 21, poi anche martedì sera, e sai, mercoledì, giovedì e venerdì, che ci vuole di più, Due ore of the best music del tutto il mondo, un po' la classifica di qua, un po' di notizie di là, sarà bello, ma tu ci sarai ad ascoltarmi? Io ci sarò ad ascoltarti, assolutamente, quindi Fergal, dal lunedì prossimo, tutte le sere dalle 21 alle 23 su Club 91 per questo giro del mondo musicale, non solo. E io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend, che sia un fine settimana ricco di felicità, fate sconquasso, mi raccomando, e noi ci risentiamo lunedì sera, Fergal. Yeah, looking forward to it. Bye Giuliana. Bye, bye bye. Grazie anche a te, buon weekend, vi lascio con Maggie. Good day.